le spese militari in Italia sono in continuo aumento, diverse centinaia di milioni di euro l'anno dal 1999 ad oggi. Nello stesso periodo il governo italiano non ha mantenuto gli impegni presi a livello di cooperazione internazionale, settore in cui l'Italia non spicca per impegno. Abbiamo sentito Giancarlo Malavolti del COGIS, associazione di ONG che domani saranno in piazza a Firenze per chiedere una svolta nelle politiche di cooperazione. Noi ci troviamo di fronte a una gravissima crisi della cooperazione, testimoniata da tre elementi estremamente concreti. Il primo, in ordine di tempo, è il taglio che è stato proposto e che si profila imminente nel decreto di assestamento del bilancio 2004 di 250 milioni di euro alla cooperazione per finanziare le attività in Iraq. 250 milioni di euro che rappresentano un quarto della fondi della cooperazione italiana. In questi 250 milioni di euro ci sono 50 milioni di euro di tagli per le ONG, che rappresenta praticamente il 100% della disponibilità per le ONG. L'altro elemento estremamente grave riguarda la mancanza di impegni da parte, non rispetto degli impegni da parte del nostro governo, che ha assunto direttamente a Barcellona nel 2002 e che ha riconfermato addirittura a settembre di portare lo stanziamento della cooperazione allo 0,27% del PIL, il prodotto interno lordo. In realtà la finanziaria 2005 riproporrà lo stesso 0,16, probabilmente, se non sarà ulteriormente tagliato, a cui si è ridotto la cooperazione italiana. Io ricordo che c'è un impegno internazionale ad arrivare allo 0,7% del PIL, cioè l'Italia è arrivata negli anni trascorsi anche allo 0,35%, c'è un impegno di portarlo allo 0,33% entro il 2006, solo la Spagna, tra i paesi che erano più indietro, perché altri sono già molto più avanti, sta impegnandosi in questo sensore. Per questo noi domani faremo questa manifestazione qui a Firenze per ottenere che un cambio della politica della cooperazione internazionale, e abbiamo l'adesione di tante istituzioni, tutta la cooperazione decentrata della Toscana, abbiamo anche l'adesione nazionale, il COCIS, che è la federazione di 25 ONG di tutta Italia, aderisce in pieno, e proporremo domani stesso al Consiglio nazionale dell'ONG di ripetere queste stesse manifestazioni in altre regioni d'Italia, in modo da far sentire almeno in sede di finanziaria questa nostra posizione. Ma l'andamento inversamente proporzionale di spese militari e progetti di cooperazione non sembra affatto essere casuale, ma anzi una scelta strutturale del governo. L'analisi del senatore verde Mauro Bulgarelli. Diciamo che l'aumento delle spese militari, cioè in finanziario sapete che è previsto un 5% in più per il Ministero della Difesa, e quindi è evidente che questo ricade su tutto quella che è la cooperazione. Vi è un altro dato però da tenere presente, che in realtà è, ad esempio, tutte le missioni italiane all'estero, quindi anche quella dell'Iraq, sono finanziate a parte. Ecco allora dove vanno a finire i soldi che dovrebbero essere utilizzati per la cooperazione, ossia per le azioni di tipo umanitario, vanno a finire direttamente all'esercito, perché oggi è l'esercito, secondo lo Stato italiano, secondo questo governo, che fa direttamente le azioni di tipo umanitario. Infatti quelli che fino ad oggi sono stati spesi circa 2.000 miliardi di vecchie lire non risultano all'interno delle spese del Ministero della Difesa, e questo io credo che sarà il nuovo trend col quale dovremo fare conto, cioè cooperazione, ONG o associazioni solo direttamente legate al governo, all'interno di quella che è la nuova posizione del governo italiano rispetto alle cosiddette azioni umanitarie, ossia quelle legate direttamente connesse all'esercito, riceveranno finanziamenti, non vi saranno più invece finanziamenti per la cosiddetta cooperazione allargata, ossia quella al di fuori di quello che è il contenitore esercito e azioni umanitarie fatte dal governo. un tale scenario avrà ovviamente delle conseguenze anche sullo scacchiere internazionale. Sentiamo ancora Giancarlo Malavolti. Il prestigio internazionale dell'Italia si misura anche sulla sua capacità di essere presente a livello, diciamo, di relazioni bilaterali e multilaterali nella cooperazione. Si pensi che nel frattempo, oltre a questi blocchi, diciamo, che riguardano il futuro, è stato bloccato anche gli stanziamenti delle cose già approvate, deliberate, addirittura dei progetti in corso. Abbiamo in questo momento le ONG, solo le ONG, che sono una piccola parte della cooperazione italiana, vantano 50 milioni di euro di crediti da parte del Ministero degli Esteri, cioè praticamente le ONG stanno anticipando, perché i progetti purtroppo non si possano fermare per evitare il peggio, stanno anticipando un'intera annualità delle cifre che il Ministero degli Esteri mette a disposizione delle ONG. A questo punto siamo arrivati. Pensate che 50 milioni di euro vuol dire circa 200 progetti fermi, vuol dire coinvolgere probabilmente 80-100 paesi in questa situazione, vuol dire il prestigio dell'Italia largamente messo in discussione in 80-100 paesi. Basta pensare a come si è trovata l'Italia alle Nazioni Unite quando ha chiesto, per esempio, il seggio nel Consiglio di sicurezza, si è trovata completamente disarmata perché la maggior parte dei paesi in via di sviluppo non erano in condizioni di sostenerla l'Italia, perché l'Italia a sua volta non ha mantenuto gli impegni, gli ha fatto delle figure così. Questo è purtroppo la nostra cooperazione. Leopoldo Calabria, amisnet.org.